Io sono Vilma Braini di Sant'Andrea, Gorizia, Friuli Venezia Giulia. Sono slovena, di origine slovena. E dopo luglio, la caduta del fascismo, ero ancora giovane. Sono del 28 e abbiamo, tra giovani ci si parla, ci si chiede tante cose, si chiede come cosa, perché noi non dovevamo parlare lo sloveno. Ho fatto tutte le scuole italiane e dove andavi, dove, sotto il fascismo logico, dovevi sempre parlare soltanto l'italiano. In tutti i negozi dove andavi c'era scritto: qui si parla soltanto l'italiano. E quando andavamo alle scuole elementari o andavamo fuori a comprare qualche cosa, i genitori ci dicevano, la mamma specialmente, la nonna anche: guarda, se qualcuno ti chiede cosa parli in casa, devi ricordarti di dire che parliamo soltanto l'italiano. E così è stato fino il luglio del 43, quando è caduto il fascismo. Ci siamo incontrati con dei studenti più grandi di noi, che sapevano tante di queste cose, con dei partigiani del luogo e anche dei vicini paesi sloveni, e lì abbiamo incominciato a capire e a conoscere la storia dei partigiani, e da allora abbiamo aderito all'OEF, alla lotta di liberazione. È arrivato l'8 settembre, ci siamo organizzati talmente bene che gruppi di giovani con partigiani più anziani, così, chi al ponte 9 agosto, chi ad altre uscite da Gorizia verso il Friuli, verso l'Italia, aspettavamo tutte le truppe italiane che, sbandate, andavano via dalla Jugoslavia allora, e chiedevamo loro armi, munizioni, tutto quello che avevano di militare per poter dare ai partigiani, ce lo davano senza problemi, e così ho iniziato la mia lotta. E facevo tante cose, medicinali, vestiario, da mangiare, viveri, si organizzava con gente del paese, era un posto dove si poteva portare questa cosa, e da altri paesi venivano a prendere con camioncini, se avevano, o carri, contadini e così, e portavano dove dovevano portare. Così ho collaborato e lavorato per i partigiani, e con i partigiani fino all'aprile del 1944. Quando una mattina sento bussare la porta della camera da letto, entrano degli SS con un interprete sloveno, mi chiedono se sono Braini Vilma, rispondo di sì, e mi dicono di seguirli con me. Hanno arrestato anche mio zio, fratello di mio papà. Mio papà non c'era a casa, era stato mandato in Sardegna come battaglione speciale, perché è sloveno, senza le stellette. Erano vestiti di militari, però non avevano queste perché sloveni. Dunque, Sant'Andrea, quel giorno siamo stati arrestati una decina, anche una mia amica della stessa mia età, che era in questo campo di concentramento, Stana si chiama, Stana Logar, e qui è rimasta per 40-50 giorni, non so esattamente quanto tempo, 2 mesi credo, e poi sono andate via a lavorare nelle fabbriche con altri. Questo ho saputo tutto dopo. Io ho lavorato con i partigiani sloveni, perché Sant'Andrea una volta era un comune sloveno, sotto l'Austria prima e poi anche subito sotto l'Italia, ma nel 28, all'evento dei fascisti, 27-28, il comune di Sant'Andrea è stato tolto, è andato sotto Gorizia, è un rione di, oggi come oggi ancora, di Gorizia, ma sempre sloveno. Questo momento storico per me è una cosa molto brutta.